Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko a Marta del collettivo di Ole Festival. Ciao Marta e benvenuta. Ciao a tutte e tutti. Allora, Marta, siamo qui per parlare appunto del grande ritorno di Ole oltre l'editoria, il festival dedicato appunto al mondo dell'editoria indipendente, del fumetto, delle autoproduzioni, che è un po' che insomma mancava tra le strade di Bologna. E quindi ti volevo chiedere appunto, Marta, per chi non conoscesse Ole, se ti va di raccontarci brevemente che cos'è, come nasce. Allora, oltre l'editoria è un festival che nasce nelle mura di XM24, nel 2017 venne la sua prima edizione, vengono fatte 3 edizioni all'interno di XM, 17, 18 e 19, per poi avere la sua ultima edizione non fisica, diciamo attivo nell'etere, attraverso la collaborazione con Radio Spore nel 2020. È stata un'edizione, una giornata in diretta sulla radio con una tematica specifica che era segnale, perché eravamo durante il lockdown e pensavamo fosse necessario, nonostante la mancanza della presenza fisica, essere comunque presenti e di dare spazio a quello che è il mondo dell'autoproduzione, anche senza vedersi, toccarsi e avere la possibilità di mostrare che la rete di conoscenze e di progettualità esiste anche al di fuori del momento festival in primis. Poi Ole nasce all'interno di XM per le volontà personali di alcuni individui, ovviamente con interessi comuni, però soprattutto nasce dalla necessità del fatto che festival di questo tipo esistevano in altre città, venivano frequentati già da come banchettari, come espositori, da questa individualità, ed era ovvio per questi individui che mancasse a Bologna, una città comunque così piena di artisti, ma anche di persone che scelgono di fare autoproduzione come scelta politica, appunto, che mancasse a Bologna questo tipo di festival. E quindi queste persone comunque vedevano XM24 come unico contenitore e come unico luogo possibile per ospitare un festival del genere. Ed è stata la grandezza di Ole, anche perché era una delle giornate annuali, dei festival annuali di XM, che riusciva a raccogliere più persone in assoluto e a tessere una rete che fosse nazionale e anche internazionale. Questo è Ole, è sostanzialmente un festival di autoproduzione e editoria specificatamente, però che si interessa sostanzialmente di questo campo, anche se è sempre stato in grado di essere molto trasversale. Come dicevi tu, appunto, nasce tra le mura di XM24, che insomma sappiamo bene la sua storia, e quindi purtroppo non può essere rifatto lì dentro, però insomma quest'anno avete trovato un nuovo spazio, tra l'altro uno spazio occupato in via Zago, e si svolgerà lì proprio il 22, quindi questa domenica. Perché avete deciso di tornare quest'anno con una nuova giornata di Ole? Ma riprendo un po' il discorso di prima, avevamo detto che appunto la quarta edizione è stata fatta nell'etere attraverso la radio, il tema era segnale, cioè rimanere appunto con un messaggio nonostante la mancanza fisica. Quest'anno invece, per la quinta edizione, il tema è SOS, che è, oltre al significato letterale che noi tutti sappiamo, gli abbiamo dato il significato che è sono, occupo spazio, proprio perché dopo 2 anni di mancanza di un festival a Bologna, ma anche in realtà questa cosa è mancata anche in tante altre città, per dire il crack del Forte quest'anno rifà l'edizione dopo 2 anni ed è uno dei festival fondanti di un certo modo di approcciarsi politicamente all'autoproduzione. Nel momento tale in cui si è avuto la possibilità di avere uno spazio fisico di occupazione, di rivendicazione politica rispetto a certi processi urbani di gentrificazione, non si poteva fare a meno di creare la possibilità di fare Ole e il festival in uno spazio fisico, e questo è il motivo per cui noi abbiamo deciso di prendere la palla al balzo, per così dire, e tornare più forte ancora, secondo me, e a maggior ragione con un messaggio politico, proprio perché c'è un'occupazione effettiva e non solo in uno spazio occupato, comunque che però ha una sua storia. Questa è effettivamente un'occupazione che non ha nessun'altra definizione se non essere se stessa e vivere lo spazio, trasformarlo e attraversarlo. Quindi abbiamo deciso sostanzialmente di prendere questa occasione perché proprio Ole nasce come un festival che era simbiotico con l'essenza di XM, nel momento tale in cui esiste un altro spazio che condivide le pratiche che sono sempre state caratteristiche di Ole, non c'era altra possibilità per noi, nel senso era naturale, cioè è nato in maniera istintiva questa possibilità. Perfetto. Certo, Marta, io innanzitutto ti ringrazio veramente per aver ripercorso un po' la storia di Olé, per averci parlato di questa nuova giornata, di questa nuova edizione di Olé Festival, e io proprio a livello personale sono veramente troppo felice perché era una delle giornate più belle di tutto l'anno che aspettavo anche noi con più gioia. Siamo. Esatto, quindi non vedo l'ora, insomma ci vediamo veramente tutti e tutte il 22 in Via Zago per Olé Festival. Esatto, ricordo il 22 maggio, infatti dalle ore 10 sarà aperta la mostra mercato, avremo due presentazioni, di cui una tavola rotonda aperta sul tema sempre gentrificazione e spazi urbani e processi urbani, e vi aspettiamo tutte qua. Grazie mille Marta. Grazie a te.